100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Chi era un po' spaventato dall'altalena dei mercati e dalla volatilità delle borse e del debito dovrebbe guardare che cosa sta succedendo sul mercato delle valute. Già da tempo il dollaro e l'euro si inseguono, con la debolezza del dollaro che fa capolino quando si parla di tassi di interesse, e soprattutto l'euro che scende quando Draghi o altri dirigenti della BCE dicono che l'epoca del quantitative easing non è ancora finita e che anzi i banchieri centrali sono pronti a finanziare banche ed economia ancora a lungo se l'inflazione non tornerà a salire. Ma questa volta è stata la Merkel. Un po' sorpresa, la cancelliera tedesca ha infatti ammesso che l'euro è troppo debole, sarebbe insomma sottovalutato rispetto ai suoi valori reali, che è poi fra l'altro la tesi di Donald Trump, che fu coperto di invettive e di attacchi personali quando disse proprio che l'euro era troppo debole perché la Germania faceva comodo così. Una missione di colpa che stupisce in questo momento, ma che in fondo non sorprende neppure troppo se pensiamo al clima che c'è in Europa. Un'improvvisa ondata di, chiamiamolo così, buonismo ha colto un po' tutti i governi davanti alla pressione dei movimenti antisistema o populistici, e giocare un po' sulla valuta, rilanciare l'immagine buona dell'Europa e anche della valuta, sembra un po' una parola d'ordine fra tutte le economie principali. Speriamo che sia così, perché se altrimenti si tratta soltanto di frasi e di slogan dette per le elezioni, brutte sorprese potrebbero emergere dalle urne. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Forse è cinismo, forse no, anzi potrebbe anche essere il segno di una volontà di non cedere alla paura irrazionale che è il primo vero obiettivo di ogni attentato terroristico. Fatto sta che la strage al concerto degli adolescenti di Manchester non ha avuto impatto sui listini delle borse, che anzi segnalano rialzi più o meno generalizzati. I mercati oggi hanno guardato soprattutto ai dati macroeconomici usciti in concomitanza con la riunione dell'Ecofin e hanno salutato con favore soprattutto la lettura di maggio del PMI manifatturiero e del PMI servizi per la zona euro e le principali economie dell'area. Mentre quello servizi è sceso leggermente da 56,4 a 56,2 punti, quello manifatturiero è salito a 57 punti da 56,7 di aprile. Sono gli indici elaborati sulla base delle indicazioni dei manager degli acquisti e indubbiamente segnalano una spinta all'economia europea. Particolare non da poco, il rafforzato clima di fiducia ha anche spinto le aziende ad assumere nuovi lavoratori, fatto segnalato dal sottoindice sull'occupazione salito addirittura al massimo ventennale. Il morale delle imprese del vecchio continente sembra alto e anche il dato dell'indicatore di fiducia della Germania, il cosiddetto indice IFO, è salito sempre in maggio al livello record di 114,6 punti, il massimo dal 1991, segno che la Germania è sempre più locomotiva d'Europa. Naturalmente la strage fatta dall'ISIS a Manchester non può non suscitare un moto di ribellione verso chi pianifica il terrore e un sentimento di profondissimo sconforto per le vite stroncate di ragazzini felici al concerto della loro beniamina, ma forse anche quella dei mercati che guardano ostinatamente al futuro ed è un futuro migliore è una forma di ribellione, il modo glaciale con cui la finanza dice al mondo no pasarán. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.